Cantine di Franciacorta. Un saluto dalla cantina Villa Franciacorta, sita al centro dell'omonimo borgo medievale, frazione di Monticelli Brusati, borgo di proprietà della famiglia Bianchi, azienda vitivinicola da 330.000 bottiglie all'anno, da 37 ettari di vigneti, produzione storica di bollicine dal 1978. Roberta Bianchi, in rappresentanza dell'azienda, ci racconta le scelte fondamentali di Villa Franciacorta. Sì, la nostra scelta da subito, da sempre, è stato un credo di mio padre di millesimare tutta la nostra produzione, quindi non c'è una nostra bollicina che non abbia l'anno di riferimento di vendemmia. Altra cosa che ci caratterizza è il fatto che usiamo solo uve nostre. Noi crediamo nel controllo dell'intera filiera dall'innesto della barbatella alla bottiglia in tavola, proprio perché ci piace pensare che la nostra non solo sia un'azienda di famiglia, ma ci permetta personalmente di controllare il prodotto che poi andiamo a presentare. È tutto, alla prossima tappa! Vi aspettiamo al Festival Franciacorta in Cantina il 18 e il 19 settembre 2010.